Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, poi non dite che la crisi è così nera che l'economia non riparte. Avete sentito? I saldi nelle prime due settimane sono andati piuttosto benino, meglio delle attese, lo dice la Confesercenti. E voi avete approfittato dei saldi per fare qualche acquisto a prezzi scontati che avevate rimandato? 800 24 00 24, qual è il vostro termometro della crisi? Anche di questo possiamo parlare oggi. Intanto però andate sul sito di Radio 24 alla pagina del programma Si può fare e votate il sondaggio, scegliete la vostra storia preferita di cui abbiamo parlato in questi primi 12 mesi di programma, un modo anche per celebrare questo primo anno di Si può fare. Si vincono dei premi, un soggiorno sostenibile offerto dagli amici di EquoTube. Andate sul sito di Radio 24, trovate tutto, andate anche sulla pagina Facebook, su Twitter, siamo un po' da tutte le parti. E adesso qualche notizia per cominciare la giornata di oggi. Intanto a Palermo c'è il taxi collettivo a 2 euro, quindi pochino, un prezzo conveniente, però nessuno lo sa, il comune non ha fatto molta pubblicità, dicono i tassisti, e il servizio non sta andando a buon fine. 800 24 00 24, palermitani, amici di Palermo, chiamateci e raccontateci se ne avete usufruito, se conoscete questo servizio, il taxi collettivo a 2 euro, e che cosa ne pensate. Sempre in termini, parlando così di mobilità sostenibile, un'altra buona notizia arriva da Bari, dove è stata installata la prima colonnina elettrica per fare rifornimento di energia elettrica per le automobili. Davanti al teatro Petruzzelli, entro giugno diventeranno 24, la prima installata al sud, un progetto che prevede 50 postazioni per fare rifornimento di energia elettrica per le autovetture, appunto, che marciano con questo combustibile non inquinante. E poi insomma non possiamo non parlare anche noi della campagna elettorale, che di questi tempi sta diventando un genere a sé. Difficile trovare buone notizie nel mare magnum delle promesse della campagna elettorale, sono tante chiacchiere, tutte belle cose, poi si tratterà di vedere dopo cosa diventerà eventualmente buone pratiche. Restando ai fatti, i fatti sono le liste, c'è la questione degli impresentabili. Ora dico io, in attesa di trovarli bravi e competenti, cerchiamo almeno di candidare gente che non siano delinquenti. Allora, Monti ha messo sotto la tagliola da tempo di Bondi i candidati, il PD ieri ne ha espulsi 3 o 4 per questioni giudiziarie, il PDL sta valutando se candidare gente come Cosentino e Dell'Utri, che di guai giudiziari alle spalle ne hanno parecchi. La prima notizia invece di oggi riguarda sempre il voto del 24 e 25 febbraio, viene da Trieste, ma è un'iniziativa bipartisan. Lo scrutatore non votante è indifferente alla politica, tiene assai a dire oissa, ma poi non scende dalla macchina. È come un ateo praticante, seduto in chiesa la domenica, si mette apposta un po' in disparte per dissentire dalla predica. Lo scrutatore non votante è solo un titolo, un'immagine, per cui sarebbe interessante verificarlo in un'indagine, intervistate quel cantante. Una mozione in consiglio comunale a Trieste per chiedere di scegliere prioritariamente i disoccupati tra gli scrutatori. Una piccola occasione di lavoro per chi non ha un lavoro, però perché buttarla via? Un'iniziativa che tra l'altro è bipartisan. Ne parliamo con Istok Furlanic, che è presidente del consiglio comunale di Trieste. Buongiorno Furlanic. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Prima di tutto, dicevamo, la genesi di questa iniziativa proposta, adesso ci direte poi a che punto siete e cosa proverete a fare, perché nasce da un leghista e viene accolta anche da lei, che è della Federazione della Sinistra. Esattamente, la proposta iniziale parte da un consigliere comunale della Lega Nord, ovviamente io come presidente del consiglio comunale devo apporre la mia firma, cioè per comunicare che è stata consegnata questa mozione. Sì. Leggendo il testo le è piaciuta? mi è piaciuta, devo dire, di conseguenza come consigliere comunale, perché oltre ad essere presidente del consiglio comunale sono anche consigliere comunale, ho apposto la mia firma, anche se la mozione appunto proveniva da un leghista. Però ci sono delle perplessità da parte di altri partiti, no? A fare che cosa? Perché cos'è che propone questa mozione? Ma la mozione, che poi fra l'altro è stata approvata dal Consiglio Comunale lunedì scorso, chiedeva nel testo originario di privilegiare i disoccupati, poi è stata leggermente modificata, sì, e sostanzialmente chiede di inserire nell'elenco degli scrutatori coloro che non hanno un lavoro, pertanto possono essere anche casalinghe, pensionati, sì, studenti. In ogni caso credo, cioè, si allarga un po' la platea, perché mi scusi Fullanici, quello che succede normalmente è che le commissioni elettorali dei vari comuni scelgono tra le liste delle persone che si sono iscritte nella lista degli scrutatori, scelgono un po' in base, diciamo, alla lottizzazione, cioè ogni partito vorrebbe che ci fossero nel seggio persone vicine al suo partito, e questo criterio dei disoccupati scompagina un po' questi piani, o no? Ma sì, la legge attuale prevede che la commissione elettorale che è composta dall'assessore competente più tre consiglieri, due della maggioranza, uno dell'opposizione, di fatto determini i criteri e poi nomini queste persone. Nel caso di Trieste c'è un totale di 1126 tra presidenti di seggio e scrutatori, su un elenco che supera le 8700 unità. La maggioranza di queste 1126 persone viene nominata in base alle segnalazioni che provengono dai vari consiglieri, dunque sostanzialmente dai partiti. Non necessariamente sono iscritti al partito. No, vabbè, sono persone che risultano in qualche modo essere, esatto, di fiducia per un controllo che poi viene esercitato, anche se poi potrebbero esserci i rappresentanti di lista, e quindi questo sarebbe, diciamo, è un altro capitolo, nel senso uno i rappresentanti di lista sono un altro capitolo, quindi non ci sarebbe bisogno di scegliere tra gli scrutatori necessariamente persone vicine ai partiti, però siccome la legge stabilisce che a scegliere sono i consiglieri comunali, poi di fatto succede questo. Adesso però, Fullanici, qual è l'obiettivo minimo che vi ponete, visto che appunto i disoccupati l'avete inserito, persone senza lavoro, come criterio di scelta per le persone che vengono mandate a lavorare nei seggi? Mi dica una percentuale, il 30% almeno, il 40%, il 20%? Sostanzialmente in questa mozione si chiede di ovviamente privilegiare le persone che non hanno un lavoro. Ovviamente è difficile da perseguire questo obiettivo, perché però provateci, visto siete arrivati a un accordo bipartisan su questo. Personalmente sono già soddisfatto, perché quattro persone iscritte nell'albo degli scrutatori, di cui tre assolutamente non si riconoscono nel mio partito, pertanto persone che possono votare anche altri partiti, mi hanno segnalato il loro nominativo, ho già inoltrato questi nominativi al rappresentante nella commissione elettorale e perfetto, verranno quindi voi, cioè, lei almeno già sta operando per realizzare questo criterio. Poi l'avrei fatto indipendentemente dall'esito della mozione. Vabbè, perché adesso c'è anche una mozione che vi sostiene, e tra l'altro, esatto, io dico anche a chi ci sta ascoltando, consiglieri comunali di altre città piccole, medie e grandi, prendete esempio da Trieste o raccontateci le vostre buone pratiche all'800 24 00 24, se anche voi cercate di dare la precedenza, perché mi sembra una cosa giusta, perché buttare via questa occasione a chi non ha un lavoro. 150 euro per uno che non ha un lavoro possono essere una bella boccata d'aria. Fullanici, sempre meglio di nulla. Io vi ringrazio, voi di Trieste, perché avete preso questa iniziativa, ci avete dato spunto, la notizia l'aveva riportata Il Piccolo e lei ci ha raccontato a che punto siete. Grazie, in bocca al lupo per tutto. Spegnete la luce, sentite una voce più ancora distante, è un grillo parlante. Viene, viene. E adesso sentirete come si è laureato. Viene, viene, eccolo qua. E adesso sentirete che predica, che ci farà. I grillini restituiscono il 70% del loro stipendio in Sicilia, una notizia di qualche giorno fa, ma che valeva la pena di un approfondimento in un programma come questo. Si può fare, l'avevano promesso, l'hanno fatto. Ne parliamo con Giorgio Ciaccio, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Sicilia, o deputato, come occorre dire da voi. Deputato, sì. Ciao deputato. A tutti, grazie. Noi abbiamo un Parlamento, non abbiamo un Consiglio regionale. Togliamola anche questa edizione che è inutile, no? Parlamento, deputato. Alla fine siamo appunto cittadini. Cittadini e consiglieri regionali, insomma, in tutte le altre parti d'Italia è così. Vabbè, ma questa è un'altra cosa che non c'entra nulla. L'avevate promesso, lo avete fatto, c'è stato il Restitution Day, adesso però è giusto ritornare su questa notizia. Il 70%, quanto in termini economici intanto avete restituito? Oppure, se ci vuol dire, quanto vi rimane in termini di stipendio a voi consiglieri regionali? Allora, noi abbiamo restituito, diciamo, in 15, noi siamo 15 sì. Come consiglieri del Movimento 5 Stelle, abbiamo restituito 123.000 euro per quasi un mese, perché noi abbiamo preso ufficialmente servizio dal giorno 5 dicembre. Quello che ci rimane è quello che noi, diciamo, riteniamo sia attualmente nel contesto sociale, economico e storico attuale, è giusto per un'attività legislativa a cui, diciamo, siamo chiamati a fare. Quindi noi teniamo 2.500 euro netti più un rimborso spese di tipo puntuale, diciamo, che intendiamo tutti quegli spostamenti che facciamo quasi per a livello istituzionale, cioè se ci sono degli incontri importanti e noi quindi ci spostiamo con mezzi congrui, quindi autobus, treno o macchine di piccola cilindrata, non quelle, allora sì. Diciamo di quello. Questo però, Ciaccio, mi scusi, perché poi andiamo sui tecnicismi, però questo è quello che prendono anche tutti gli altri consiglieri, no? Cioè, questo vale per tutti o vale solo per voi, no? No, allora, questa, diciamo, è una cosa che facciamo noi, perché ufficialmente non è così. Nella nostra retribuzione, sì. Tutti, diciamo, i consiglieri, oltre all'indennità parlamentare che è al netto, in Sicilia è 5.100 sì. E noi, ad esempio, di questa indennità abbiamo restituito l'eccedente parte del 2005. E su questo ci siamo capiti, perfetto. Poi c'è una diaria che è di 3.500 euro, questo sì. È un rimborso forfettario che sono le spese di soggiorno, sì. Al quale appunto noi per intero l'abbiamo restituita. Poi ci sono delle rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, sì. Che noi, queste, diciamo, addirittura possono essere, diciamo, rifiutate a monte. Quindi noi da questo mese completamente sono 3.180 euro che comprendono appunto tutti questi spostamenti. E quindi complessivamente voi 15 quanto fate risparmiare alle casse siciliane? Noi attualmente al mese. Al mese sono, attualmente abbiamo restituito appunto 123.000 euro, quindi all'anno sono un milione di euro, un paio di milioni. Durante tutta la legislatura siamo attorno a 5 milioni di euro. Un milione e mezzo, quasi due, e nel tutta la legislatura 5 milioni che verranno, e qui è anche la cosa interessante, perché c'è stato un giallo all'inizio, il primo stipendio l'avete preso per intero, anche se in campagna elettorale avevate detto che, ma perché non avevate trovato il modo, beh, ci potevate pensare prima, ma a parte questo che è il passato, non importa, per realizzare questa devoluzione, diciamo, no, alle casse pubbliche della Regione Sicilia. Adesso avete trovato il modo, avete istituito un fondo per il microcredito per le piccole e medie imprese, cioè io posso andare lì a questo fondo a chiedere un sostegno, un prestito a tasso zero per sviluppare la mia piccola impresa grazie ai vostri soldi, così? Sì, allora noi quello che abbiamo fatto, allora non l'abbiamo fatto prima perché bisognava proprio creare un capitolo, diciamo, sì. Nel bilancio. Vabbè, ad hoc. Diciamo quindi, che questa cosa non importa perché è passata un mese, adesso però ci siamo. Sì. Sì, noi abbiamo istituito questo capitolo, diciamo, in collaborazione con l'assessore alle attività produttive, perché ci rendiamo, diciamo, conto, per noi è importante che per rilanciare l'economia bisogna stare, diciamo, vicino e valorizzare tutte le medie e piccole imprese del territorio siciliano. Quindi noi appunto insomma ci sarà questo capitolo che partirà ufficialmente dopo l'esercizio provvisorio, quindi da maggio già dovrebbe essere operativo. Stiamo già lavorando al regolamento per dare la possibilità appunto di sapere come accedere a questo, diciamo, credito. Quando Ciaccio potrebbe essere pronto questo regolamento? Allora, io penso che in maniera, diciamo, effettiva e costruttiva potrebbe essere tra giugno, diciamo, e luglio, perché una volta che parte l'esercizio ordinario e non il provvisorio, si mette, diciamo, appunto nella gazzetta ufficiale, partono i 60 giorni. Tra giugno e luglio, qual è la platea che potrà beneficiare di questi aiuti? Allora, sono tutti appunto le piccole e medie imprese che hanno appunto non solo problemi, diciamo, attuali, dimostrabili, difficoltà temporanee economiche, e possono, diciamo, noi stiamo cercando di strutturarlo in questo modo, una richiesta economica fino a un tetto massimo di 20.000 euro a tasso zero, restituibile in, diciamo, appunto, a rate fino a, diciamo, in 10 anni, quindi veramente un sostegno. Quindi chi ha già delle difficoltà, oppure chi qualsiasi ragazzo ha un progetto, un'idea imprenditoriale, qualsiasi cosa che porti, diciamo, all'autosostentamento, all'attività imprenditoriale autonoma per la nostra Sicilia. E diciamo, chi darà poi il giudizio sull'ammissibilità del finanziamento? L'assessore? Sì, allora, sì, o il consiglio comunale, diciamo, regionale? Pubblicherà in maniera trasparente il regolamento con tutti i criteri di adesione al fondo del microcredito, quindi chiunque ha quelle caratteristiche presenta all'assessorato alle attività produttive il progetto, la difficoltà economica attualmente che ha, secondo quei criteri verrà valutato dall'assessorato attività produttive e verrà erogato il contributo se si rientra appunto in quel regolamento. In quel regolamento. Va bene, insomma, adesso mi sembra tutto un po' più chiaro, l'iniziativa in campo c'è, staremo a vedere. Intanto a chi dice ma cioè, non è questo, non è così che si risolve, va bene, non è così che si risolve, però intanto si comincia così, infatti, a piccole gocce. Come dite voi, si può fare, stiamo iniziando, piccoli passi. Bravo, bravo Ciaccio, grazie. Questa è la notizia che veniva dalla Sicilia, 800 24 00 24, potete anche commentare anche questa notizia. Tra poco, appena cominciamo ad aprire il numero verde, adesso un'altra iniziativa viene dal nord per cercare di ridare smalto in modo ironico alla pubblica amministrazione. You're so sexy, sexy, sexy. I need your love, I need no hesitation. You're so sexy. Calendario delle sexy impiegate, insomma, ci provano in tante, alcuni ci riescono anche a raggranellare alcuni soldini, questa volta a scopo benefico. Il tutto avviene a Bagnolo, in provincia di Brescia. Ne parliamo con una delle ideatrici, Milena Bacchiocchi, dell'ufficio tecnico del comune di Bagnolo Mella. Buongiorno. Esatto, ciao. Ho detto ciao, tutto bene? Ecco, cioè, tra le altre idee che avevate probabilmente c'era anche quella di ridare un po' di smalto ai dipendenti comunali normalmente sbeffeggiati. Avete voluto fare invece una cosa bella. Sì, allora l'idea del sexy calendario non è perché poi chi l'ha visto effettivamente non è poi così sexy, perché noi siamo tutte vestite. Ma come coperte. Noi speravamo invece in qualcosa no, di un po'. Assolutamente, anzi, piccante, magari te ne farò avere una coppia. Sì. Poi vediamo anche gli ascoltatori, magari lo mettiamo su Facebook, cosa ne pensano. Lo metteremo sicuramente sul sito del comune di Bagnolo, perché da qui è partito con l'autorizzazione appunto del sindaco e di tutti gli assessori che mi hanno dato l'ok. L'idea mi è venuta così dal niente, perché io sono piena di idee. Brava. E ho parlato poi con una collega che subito mi è sembrata entusiasta e da qui siamo partite. Quanto avete raccolto intanto? Allora, per il momento siamo arrivati a più di 1.600, di cui 1.200 sono già stati attribuiti alle famiglie che hanno praticamente tramite i servizi sociali hanno distribuito questi soldi con un minimo di 150 fino ad un massimo di 400. Guardate che non è poco per un comune. Quanti abitanti fa il vostro comune? Sono circa 12.000 abitanti. Beh, insomma, parliamo di un comune non piccolissimo, però non è che ci sono le grosse cifre. E a chi avete destinato questi aiuti? Allora, sono famiglie di Bagnolo, per la maggiore anziane, che fanno fatica a pagare l'affitto, alcune sono state pagate delle spese mediche, altre invece sono state aiutate con il pagamento delle bollette del gas piuttosto che l'energia elettrica, e quindi si danno, ecco, tutti questi aiuti a queste famiglie che purtroppo in questo periodo fanno davvero fatica. In quante siete comparse in questo calendario? Allora, siamo otto persone, otto colleghe, sì. Abbiamo fatto delle fotografie in ambienti diversi di Bagnolo, anche per far conoscere proprio alcuni strati. Ma la foto più sexy qual è? La foto più, un pochino più sì. Non ce ne sono più sexy, vabbè, abbiamo fatto delle foto nel Palazzo Bertazzoli, che è la sede della biblioteca, ma siamo... Però io ho visto qualche sguardo malizioso, qualcosa, insomma... No, vabbè... Adesso lei dice di no, ma... Forse abbiamo fatto vedere un po' dal ginocchio in giù e una sgollatura di una, oddio, dal di una nostra in collega giù. Che vabbè, ha tutti gli attributi a posto, quindi magari lei può un attimino far vedere. Vabbè, un insomma, un piccolo colpo d'immagine delle dipendenti comunali di Bagnolo Melo in provincia di Brescia. Grazie, il tempo purtroppo per ora è esaurito. E comunque, grazie molto e spero di avere ancora l'occasione di poter vendere, dato che... un po' di pubblicità ve l'abbiamo fatta, anche esatto, magari fuori da Bagnolo. Grazie, ci piaceva lo spirito di questa iniziativa. Eccoci qua, ben ritrovati. Oggi il nostro tecnico della regia, Pietro Lacorte, è di Palermo. Possibile che nessuno da questa meravigliosa città ci stia chiamando per darci un parere sul taxi collettivo a 2 euro, che però, dicono i tassisti, per ora non sta funzionando, non c'è stata abbastanza pubblicità da parte del comune, questa iniziativa non viene conosciuta, forse c'è qualcosa che non va, vogliamo capire che cosa, perché l'iniziativa è buona, un taxi a 2 euro in città per muoversi a Palermo, meglio di così, 800 24 00 24. Però poi andate sul sito di Radio 24, sotto la parte di si può fare c'è il sondaggio, votate, scegliete la vostra storia preferita di questi primi 12 mesi, si vince un soggiorno offerto sostenibile dagli amici di EquoTube. Abbiamo qualcuno al numero verde? Sì, Roberto dalla provincia di Treviso, buongiorno, benvenuto Roberto. Sì, buongiorno. Eccoci qua. Sì, io condivido la scelta degli altri consiglieri, anche noi qui a Casale sul Sile in provincia di Treviso. Dove, mi scusi, a Casal? A Casale sul Sile in provincia di Treviso. Noi ci stiamo adoperando anche noi per cercare di portare nelle liste elettorali appunto le persone che ne hanno più bisogno, quindi appunto disoccupati, ma anche magari studenti, persone che si trovano in difficoltà. Anche noi abbiamo colto in maniera bipartisan la cosa, io sono della Lega Nord ma sono la minoranza, siamo appoggiati sia del PD che dalla lista civica che è appunto al comando del comune, quindi stiamo cercando appunto, insomma, di provateci, pensare... Bene, anche lei ci testimonia che questo tentativo si può fare, esatto. E da qualche parte lo si sta facendo. Invito anche gli altri consigli comunali appunto a fare una riflessione a riguardo. Bene, uniamoci tutti in questo invito, grazie anche a Roberto che ci chiamava dalla provincia di Treviso. Andiamo a Paolo che ci chiama da Palermo. Paolo, lei lo conosce il servizio del taxi a 2 euro, il taxi collettivo? Lei ci chiama da Palermo? Ascolti, io chiamo da Palermo, non conoscevo questo servizio, ma non chiamo per questo. Non c'è pubblicità, non ha fatto pubblicità il sindaco Orlando, come si fa a fare queste iniziative e poi a non dirle? La gente poi non lo sa e non ne può approfittare. Mi scusi Paolo, lei invece perché cosa ha chiamato? Allora, no, io ho fatto una semplice riflessione, sarà una riflessione anche di carattere populistico, voglio dire, ma per quanto riguarda l'IMU e per quanto riguarda il redditometro, mi sembra che per quanto riguarda l'IMU, mi sembra che sono tutti d'accordo che c'è qualcosa che non va, da Bersani a Berlusconi, addirittura anche al premier uscente Monti, quali dicono che insomma c'è qualcosa che non va. Quindi? Quindi una volta che sono tutti d'accordo, intanto perché non fanno un bel decreto legge, la sospendono, la riverificano e poi riproporla in maniera giusta, anche per quanto riguarda... Ma guardi, non mi risulta che sono tutti d'accordo sul toglierla, è solo Berlusconi che dice che la vuole togliere, Bersani ha detto che la vuole rimodulare, Monti ha detto che vedremo, quindi non è così. Grazie Paolo, grazie, no, non è questo l'argomento di oggi, per cui va bene, lei ha detto quello che voleva dire, benissimo. Giacomo dalla provincia di Milano. Buongiorno Alessio, grazie. Eccoci. Di avermi richiamato. No, io volevo intanto complimentarmi con i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, perché effettivamente mi hanno diciamo, non mi fanno più sentire solo, perché io è la seconda legislatura, io sono consigliere comunale nel mio comune, il comune di Canegrate, e io è la seconda legislatura che rinuncio interamente al gettone di presenza. Purtroppo siamo un paese piccolo, quindi la cifra è veramente minima, ma non è la quantità, ma è il messaggio che si deve lanciare, cioè la politica deve essere il primo esempio per i cittadini. Normalmente allora, è l'ultimo, però esatto, no, è anche la quantità, esatto. Però mi scusi Giacomo, perché poi per esempio i numeri della Sicilia, 5 milioni in una legislatura, fra l'altro non gliel'ho chiesto a Ciaccio, ma so che stanno lavorando perché altri partiti aderiscono a questa iniziativa in Sicilia, e poi alla fine sono numeri che possono avere anche una certa consistenza. Vorrei aggiungere qualcosa o ci salutiamo, sì, Giacomo? No, no. Ecco, sì, che non si è... sente meno solo, anche voi state facendo, dove esattamente che mi sono perso? No, io sono, purtroppo sono da solo, sono consigliere comunale. Dove? A Canegrate, in provincia di Milano. Benissimo. È un comune piccolo, io sì. Saranno circa 700-800 euro all'anno, perché purtroppo... Buttali via, che dobbiamo fare? Ecco, quelle là di Bagnolo hanno dovuto mettersi a fare il sexy calendario per accattare un po' di soldini. Grazie Giacomo, 800-24-00-24. Adesso facciamo anche noi una piccola appendice extra settimana, la settimana sociale di Radio 24. Avete sentito la denuncia Italia al welfare, alla sanità... soprattutto, scusate, sulle fasce più deboli, gli anziani, i disabili, ne abbiamo parlato approfonditamente, e oggi si è chiuso tutto con l'editoriale del direttore Fabio Tamburini. Però noi andiamo in dai sabato, e quindi per forza dovevamo parlarne oggi. Abbiamo scelto di parlarne con Ivano Maiorella. Buongiorno Ivano. Buongiorno, buongiorno a te gli ascoltatori. È un collega che è direttore del giornale Radio Sociale, un'iniziativa del Forum del Terzo Settore, si occupa di varie cose, adesso parleremo proprio di quello di cui si occupa questo giornale Radio Sociale. Ci piaceva l'idea di parlare di come si parla di questi argomenti del sociale, dei più deboli, argomenti che per esempio in questa campagna elettorale mi pare che si parli di tutto tranne che di chi ha più bisogno, anziani, disabili, eccetera. È così Ivano, per esempio, tanto per iniziare? Ma per parlare di campagne elettorali, le campagne elettorali sappiamo che sono, diciamo così, il termometro peggiore per misurare un paese e anche il grado di responsabilità della politica, mai come in questo momento distante dai cittadini. Quindi probabilmente ne sentiremo parlare, Alessio, andando avanti nei prossimi giorni, ma sappiamo che misurare in questi giorni quella che è l'agenda di chi governa o di chi governerà è davvero complicato. Viene l'amarezza per chi ha a cuore problemi come quelli di cui appunto stiamo parlando, perché insomma per esempio la questione dei disabili o del disagio anche mentale, ci sono state varie inchieste, è un vero e proprio buco nero del welfare italiano. Però io adesso vorrei cominciare a parlare con Ivano Maiorella di che cosa fate voi, da quanto tempo lo fate, questo giornale Radio Sociale che va in onda tra l'altro su vari radio, lo portate, lo trasportate, però lo producete voi. Sì, il giornale Radio Sociale è praticamente un anno di vita, una striscia quotidiana di 3 minuti che viene prodotta da noi, dal giornale Radio Sociale, una redazione che impagina in 3 minuti 6 notizie, quindi società, diritti, economia, cultura, spettacoli e sport, che sono poi gli argomenti portanti di qualsiasi TG, di qualsiasi anche giornale. L'idea è quella di trasformare il modo di dare le notizie, quindi darle dal basso, privilegiando un punto di vista di chi lavora nel sociale, di chi è protagonista del terzo settore o, parlando di economia, di tutto il mondo del non profit, che è un mondo che è molto vasto, in crescita, matura punti di PIL, però continua ad essere spesso ignorato, oppure se ne parla troppo in termini strumentali, sia dalla politica sia dai mezzi di comunicazione. Quindi grazie anche dell'invito, Alessio, che ci avete fatto. È un'iniziativa importante che sta prendendo piede, insomma si può ascoltare su varie radio nazionali, come dicevi tu, radio locali, ma che poi hanno ovviamente per forza di cose una diffusione su tutto il territorio nazionale. Sentiamo allora. Noi abbiamo fatto un piccolo estratto, però un esperimento, vi abbiamo chiesto di darci qualche buona notizia, visto che questo è un programma che questo cerca di fare, e allora sentiamola nella chiave in cui che offrite voi normalmente. Giornale Radio Sociale, un piccolo estratto, 1 minuto e mezzo, un paio di buone notizie. GRS, Giornale Radio Sociale. Scampia Chiamarai, appello dell'associazione articolo 21 ai direttori delle testate di informazione di Viale Mazzini. L'idea è quella di raccontare le realtà che lottano ogni giorno contro le mafie e che spesso sono ignorate dall'informazione generalista della TV di Stato. A passo di solidarietà, presentata questa mattina a Roma la 14ª edizione della Corsa di Miguel, dedicata alla memoria del giovane desaparecidos Samia Yusuf Omar, che si svolgerà il prossimo 20 gennaio. All'interno della gara non competitiva verrà ricordata anche un'atleta somala morta durante la traversata per raggiungere le Olimpiadi di Londra, come ci racconta la scrittrice Ijaba Scego. Quest'anno, insieme alla Corsa di Miguel, la mia associazione, che si chiama I Fonti di Civiltà, ha pensato bene di dedicare uno spazio a Samia Yusuf Omar, che era appunto un atleta somala che aveva partecipato alle Olimpiadi di Pechino e che però è morta in mare per raggiungere le Olimpiadi di Londra. Insomma, erano solo due notizie tra le buone notizie che ci ha segnalato il giornale Radio Sociale. Ci avevate preparato un elaborato un po' più lungo, però Ivano Maiorella abbiamo dovuto scorciare un po' perché il tempo è sempre tiranno. E questo era un esempio, tanto per capire qual è il lavoro che fate, prezioso. Qual è, Ivano, la priorità, insomma, quali sono? Voi alternate, come si sente anche da questo estratto, storie piccole, storie grandi, anche con una visione che può sembrare anche un po' politica, no, delle cose, ma del resto quando si parla di problemi bisogna affrontarli, risolverli, quindi non si può fare a meno della politica. Quali sono i punti più importanti di crisi della situazione sociale dal vostro punto di vista in Italia? Dal nostro punto di vista, diciamo che noi raccontiamo, quindi portiamo su un media che è multimediale, ne approfitto per ricordare il nostro sito www.giornaleradiosociale.it, dove c'è tutto l'archivio audio, video e di notizie scritte, quindi da lì parte tutto un meccanismo. Alle 15 è pronta la prima edizione, Facebook, Twitter, le 50 radio in FM grazie al circuito di area in tutta Italia e grazie alla collaborazione con Radio Articolo 1, e quindi in realtà noi fotografiamo quello che esiste nella realtà, né più né meno, quindi un punto di vista di coloro che ogni giorno, parliamo di associazionismo, volontariato, non profit, ci danno da fare per non perdere la dimensione della realtà. Le notizie che diamo, che cerchiamo di dare, non sono intercambiabili. Uno è un ascoltatore che sceglie la radio, e anche qui una scelta importante, il canale radio arriva dappertutto, è un po' come l'acqua, quindi proprio molto simile al terzo settore, abbassa i costi di produzione, e le notizie non sono intercambiabili perché in qualche modo il nostro punto di vista porta avanti delle tesi, ovvero il fatto che la stessa notizia può essere data in tanti modi diversi. Secondo noi oggi il punto di vista del sociale, dei protagonisti del sociale, è un punto di vista carente, per cui insieme anche ad altre testate che oggi si danno da fare come redattore sociale, lo cito in maniera particolare, noi tentiamo di farlo attraverso la radio, quindi grazie ancora dell'ospitalità, speriamo di poter continuare la collaborazione. A risentirci sicuramente, grazie intanto ad Ivano Maiorella, direttore del giornale Radio Sociale, redattore sociale che tu citavi, faceva parte proprio di questa iniziativa che si è chiusa stamattina con l'editoriale del direttore di Radio 24, la settimana è sociale. Allora, intanto un po' di messaggi al 349-238-6666 sulla questione scrutatori scelti tra i disoccupati. C'è chi ci scrive, Rico da Varese: se sono ad esempio disoccupati, sono soggetti deboli, facilmente manipolabili. In Italia non si può fare. Ma io dico, ma come viene in mente che se uno è disoccupato è manipolabile, allora fa le gabole a favore di un partito piuttosto che un altro? Ma non è così, le gabole non si fanno, nel seggio c'è un sacco di gente, ci sono rappresentanti di lista, è solo un'occasione per farli lavorare. Sulla questione dei rimborsi elettorali in Sicilia, un altro ascoltatore dice: ma i soldi sono restituiti, ma i contributi vengono comunque pagati dalla regione o no? Sì, vengono pagati, l'abbiamo spiegato, ma vanno in un fondo a favore delle piccole e medie imprese che possono chiedere prestiti, il microcredito, a 10 anni, restituibili senza interessi a 10 anni. Quindi i soldi sono erogati, ma invece andare nelle tasche dei politici, cosa che normalmente fa venire il sangue al cervello ormai a metà degli italiani, vanno per altre finalità, quindi questo che bisogna giudicare. Va bene, abbiamo un ascoltatore al numero verde, Loris dalla provincia di Pordenone. Buongiorno, sì, Loris. Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori, grazie per avermi richiamato. Ma niente, volevo confermare, anch'io sono consigliere comunale del comune di Pordenone e ho scelto di rinunciare ai gettoni di presenza. Io sono anche capogruppo e quindi partecipo alle commissioni oltre che alle sedute di consiglio. Sì. E ho chiesto al mio comune di erogare comunque la lista, l'estratto conto dei miei versamenti, ma di destinare l'intere somme alle borse della spesa. Per chi non ha possibilità di acquistare, per chi è indigente, per chi è in difficoltà economica, insomma, ecco. Veniamo visti come una sorta di marziani che arrivano, che pensano di salvare il mondo. In realtà non è un gesto col quale si vuole salvare il mondo, è un gesto con il quale si dà una mano politici, intanto a quelle persone lì, insomma, magari ma non insomma, si salva il mondo, però si fa qualcosa. Non si risolvono i problemi della politica in Italia, sicuramente si dà un segnale, è un segnale quello che conta, anche piccolo. Io lo faccio volentieri, pur non essendo. Ma vedi, Loris, se i segnali fossero sempre di più, fossero tantissimi, credo che qualche problema invece si comincerebbe a risolvere, perché poi ci buttiamo giù, no, ma così non si risolve, no, ma non basta. Allora cosa facciamo? Stiamo fermi lì con le mani in mano? Invece no, invece va benissimo quello che voi fate. Coraggio, andiamo ancora con un ascoltatore velocemente prima di andare al prossimo ospite. Cesare da Bisceglie. Pronto? Cesare, buongiorno. Buongiorno. Niente, volevo dire, in quest'epoca di antipolitica, sì, volevo segnalare, siccome io sono un insegnante che si occupa di handicap nella, diciamo, la provincia, sì, Basca, quindi questi grossi paesi del Nord Barese, Trani, Barletta, Andria. Niente, io ho insegnato all'inizio dell'anno ad Andria e Andria ha diciamo, realizzato questo taxi sociale che ha consentito praticamente ai ragazzi in difficoltà dell'Ipsi Archimede di Andria, sì, di poter andare in piscina ad un costo, insomma, abbastanza basso di 2 euro. Cioè, voglio dire, se non fosse stato per questo taxi sociale, che voglio dire è aperto per tutti diciamo, i cittadini che ne volessero usufruire dal 1 febbraio. Quindi voglio dire, queste cose... ci tengo, insomma, a mettere in evidenza. Vabbè, insomma, Cesare, grazie, è una bella iniziativa anche questa. Noi abbiamo parlato del taxi collettivo a 2 euro a Palermo, un'iniziativa nuova che però sembra sia un flop, forse perché non è stata abbastanza pubblicizzata. Grazie, adesso andiamo in Alto Adige. Resto fermo tra le onde mentre penso a te. Fuoco rosso, luce rondine, tra le foglie soffia un vento molto debole, nel frattempo un fiore sta per nascere. Eccoci qua a guardare le nuvole, tappeto di fragole. Abbiamo detto che andiamo in Alto Adige e sulle Dolomiti in particolare ci tengono talmente alle loro montagne, siccome il turismo fa bene e va bene, però consuma e brucia anche tante risorse naturali, si punta sulla sostenibilità. In che modo? Anche tra l'altro sperimentando un tappeto che produce energia. Ne parliamo con Georg Eisat, titolare presidente del consorzio Impianti a Fune di Carezza. Buongiorno Georg. Mi sono buongiorno a tutti dalla Siaria Carezza. Ecco, mi sono incasinato perché il suo nome è com'è esattamente? Georg Eisat. Avevo detto bene, allora era andata bene. Allora, che cos'è prima di tutto questo tappeto? Sono tante le iniziative che voi fate, però questa è l'ultima cosa che avete sperimentato da poco. Sì, noi abbiamo lanciato un progetto energetico per risparmiare energia elettrica e anche per produrre energia elettrica alternativa. Uh-huh. Abbiamo tante iniziative e fra questo abbiamo installato anche un tappeto che produce energia passando sopra. Dobbiamo fermarci qua. Comunque, insomma, grazie Georg, abbiamo dato un'idea. Andate a sciare in Alto Adige, sulle Dolomiti, dove le piste sono sostenibili, dove non si bruciano energie. Grazie a Giorgio De Luca in redazione oggi, ad Andrea Piana che ha scritto insieme a me il programma, a Pietro Lacorte in regia. Anche da me Alessio Maurizio l'augurio di un buon sabato. Ci risentiamo domani. Andate sul sito e votate la storia migliore. Si vincono dei premi. Buona giornata.